Gotcha. Sì, sì, colle del fomento, danni, quasi tutto un caos. C'è il 2006, secondo atto, la finisce. Passa mentre tutto salta, tutto tembra di essere distrutto, tutto cambia. Una felice risorge dalla cenere, torna al fuoco per quanto tu la possa uccidere. E provaci, toccami le ali e bruciati, sei niente, con un'altra vittima, abituati. Una felice risorge dalla cenere, torna al fuoco per quanto tu la possa uccidere. In più, tocca anche sorridere, se no sei fuori standard. Bisognerà uccidere, ma è solo propaganda. Rimanda, perché decidere è una domanda. Comanda, solo chi sa dirigere sta banda. Chi si tramanda, solo rimedi in plastica. Ogni realtà sarà una lavanda gastrica. Chi ne mastica avrà un boccone amaro. C'è la ricetta classica, il sapore di curare. Ora lascia che sia chiaro, sta roba non ritorna. E l'ombra dietro il sipario mi sembra che ancora dorma. Si informa che lo scenario sta cambiando. E di norma, gira al contrario, non ti sta aspettando. Prova a dirmi quando. Vediamo se procedere, ma come lo domando, cos'altro ci può succedere. Se una felice risorge dalla cenere. Se una felice risorge dalla cenere. Passa niente, tutto salta, tutto tende all'essere distrutto, tutto cambia. Una felice risorge dalla cenere, torna al fuoco per quanto tu la possa uccidere. E provaci, toccami le ali e bruciati. Sei niente, solo un'altra vittima, abituati. Una felice risorge dalla cenere, torna al fuoco per quanto tu la possa uccidere. Sono sguardi che uccidono damme, rispetto dove tutto intorno è fuoco e fiamme. Società crack con il rap che si espande. Non so come lasciare la mia firma e questo è l'importante. Se brucia tutto quanto, la morte quando viene te se incolla e non esiste santo. E io che credo manco tanto, li vedo sti bastardi stare in piedi mentre i buoni sono al campo santo. Sputo sangue e canto, con i nervi a fior di pelle. I piedi nella merda e lo sguardo sulle stelle. I sogni non costano niente, so come la speranza ma mai abbastanza realmente. E allora muovo i miei passi, a volte tutto bene, a volte calci ai sassi. La gente è una cacciara, tocca sopportarsi. Ma io manco te vedo tipo mari in barzi. Parlo, parlo e non mi senti. E manco si ci metto l'anima tutta contenti. Tu vuoi cuore, testa e tutto quello che c'è intorno. Pensi che vai alla grande ma stai toccando il fondo, in fondo. Passa niente, tutto salta, tutto tende all'essere distrutto, tutto cambia. Una felice risorge dalla cenere, torna al fuoco per quanto tu la possa uccidere. E provaci, toccami le ali e bruciati. Sei niente, solo un'altra vittima, abituati. Una felice risorge dalla cenere, torna al fuoco per quanto tu la possa uccidere. E mi ritrovo di nuovo come dentro un videogioco. Mi fanno fuori se non mi sbrigo, se non mi muovo. Schivo, evito la presa a male totale, drastica, ma il mondo è una violenza dalla nascita. Lascia che sia un'idea a guidarti, anche se nessuno ha più il coraggio di ascoltarti. Altro che tafferugli, tengo a bada gli sciacalli. Mi muovo sottoterra dentro i tunnel come i Charlie. Che gioco giocano gli dèi, e intanto i ragazzini si fanno le spade di Special K. E urlate, le previsioni sono peggiorate. La gente compra i sogni, fa i bagagli, amen. L'umanità che fa? Sta affondando. Hanno costruito feticci fatti di stracci e fango. È una carestia e non si sta placando. Calma piatta, in mare mai lava. Mi sta ustionando. Provaci, toccami le ali e bruciati. Sei niente, solo un'altra vittima, fottiti. Una felice risorge dalla cenere, torna al fuoco per quanto tu la possa uccidere. Sì. Radiazione, 1° novembre 2013. Ricordiamo subito gli indirizzi per Radiazione, per la mail radiazione@artistici.org, per il blog radiazione.noblogs.org, per la radio non è .org ma è radiazione.listentumaradio.com. Qui con me non c'è Marcello stavolta, forse una presenza un pochino più più accettabile. Aspetta, ma c'è Marcello, se ci sta ascoltando non ti offende, non offende. Ciao Marcello. Ecco, quindi la voce è femminile, quindi già si capisce che la presenza è molto più allietante rispetto a quella di Marcello. Non è vero, scherzo Marcello. Allora, oggi la prendiamo sul ridere, anche se c'è qualcosa, c'è bel po' di cose serie da parlare. Ieri c'è stato il processo ad Alfredo e Nicolo, la prima udienza. C'è stata una bella presenza solidale da parte dei compagni che hanno salutato Alfredo e Nicola. C'è stato qualcosa di carino, comunque ne parleremo dopo. Per ora ci ascoltiamo un brano prima di partire con la diretta. Loro sono Eteri Teenage Riot, che praticamente fanno da introduzione a quello che sarà la puntata Blood in My Eyes. Blood in my eyes. E loro erano Eternity Nigel Riot con il brano Blood in My Eyes. Come avevo detto prima, il brano serviva un attimo come introduzione a quello che sarà la giornata odierna, la diretta odierna di Radiazione. Ricordato del processo ad Alfredo Nicola, che la prima udienza che c'è stata ieri mattina, dicevo anche della grande presenza solidale da parte dei compagni. Sono intervenuti circa un 200 compagni da tutta Italia, qualcuno anche da fuori, dall'Europa. Insomma, una cosa che in Italia non si vedeva da un bel po' di anni. Penso che una presenza così forte non si vedeva addirittura dal processo Marino, processo Marini, una delle prime udienze del processo Marini, anche alla Cervantes erano arrivati un bel po' di compagni, ma quei numeri non si erano arrivati. Quindi è iniziato ed è finito là, che praticamente appena entrata la giudice, Alfredo subito ha dato via alla lettura del testo che rivendicava come nucleo Olga l'azzoppamento della di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi. Ricordo che era stato ferito il 7 maggio del 2012, mentre Alfredo e Nicola sono stati arrestati il 14 settembre 2012. Quindi appena entrati nell'aula, Alfredo e Nicola sono stati accolti sia dai compagni che dalla giudice, che voleva fermare in tutti i modi. Poi alla fine c'è riuscita, grazie all'aiuto dei secondini, a far portare via Alfredo e Nicola. Ma comunque di fatto resta i testi che rilasciano i due compagni, in cui rivendicano l'attacco, in cui fanno capire che erano solo loro due e quindi cercano così di evitare ogni coinvolgimento, anche se poi alla fine, se i bastardi vogliono, il coinvolgimento di altri compagni lo trovano sempre. Ma comunque, una cosa bella chiara, un bel messaggio chiaro anche a chi aveva qualche dubbio, a Fred e Nicola l'hanno data, anche se non era proprio questo il senso della rivendicazione, era più altro perché loro si sentono parte di quel progetto, un progetto che è nato il 7 maggio 2012 del mattino, è finito 10 minuti dopo con il ferimento di Adinolfi. Allora, praticamente stesso ieri il PM Silvio Franze e Nicola Piacente hanno anche fatto le loro richieste di condanna per i due compagni. Alfredo Cospito è stato richiesto 12 anni e Nicola Gai 10 anni. Ora più che mai Radiazione è ancora più vicina ai due compagni, ribadendo la solidarietà e la complicità ad Alfredo e Nicola. Ora partiamo subito leggendo il primo testo di rivendicazione, quello di Alfredo, che ha per titolo Dal ventre del Leviatano. Inizia con delle frasi prese da un po' tra compagni e qualche bastardino. Allora, si inizia dal ventre del Leviatano. I sogni sono da realizzarsi qui nel presente e non in un ipotetico futuro, dato che l'avvenire l'hanno sempre venduto i preti di qualsiasi religione o ideologia per poterci impunemente derubare. Vogliamo un presente che meriti di essere vissuto e non semplicemente sacrificato ad attesa messianica di un futuro paradiso terrestre. Abbiamo per questo voluto parlare in concreto di un'anarchia da realizzare ora, non domani. Il tutto è subito, è una scommessa, una partita che ci giochiamo, dove la posta in gioco è la nostra vita, la vita di tutti, la nostra morte, la morte di tutti. Pier Leone Mario Porcu. Poi un'altra frase, un'altra citazione: la scienza è l'eterno olocausto della vita fugace, effimera ma reale, sull'altare delle eterne astrazioni. Ciò che predico è quindi la rivolta della vita contro il governo della scienza. Mikhail Bakunin. Mentre l'uomo si pavoneggiava e faceva il Dio, un'imbecillità si abbatteva su di lui. le tecniche erano innalzate a supremo rango e una volta spallate sul trono gettavano le loro catene sulle intelligenze che le avevano create. Edgar Allan Poe. L'impero fondato sul niente nel quale regni il sovrano sta crollando, non riesce a sorreggere il peso della verità, ti consiglio una dose massiccia di vita, ti consiglio una dose massiccia di vita, almeno così potrai dire di averla vissuta, congegno. Bastardi, so chi vi manda, Roberto Adinolfi. Per l'appunto, allora passiamo al testo. In una splendida mattina di maggio ho agito ed in quelle poche ore ho goduto appieno della vita. Per una volta mi sono lasciato alle spalle paura e autogiustificazioni e ho sfidato l'ignoto. In un'Europa costellata di centrali nucleari, uno dei maggiori responsabili del disastro nucleare che verrà è caduto ai miei piedi. Voglio essere molto chiaro, il nucleo Olga Fai FRI siamo solo io e Nicola. Nessun altro ha partecipato, collaborato, progettato tale azione. Nessuno era a conoscenza del nostro progetto. Non permetterò che il mio agire, per distogliere l'attenzione dal vero obiettivo dell'azione, venga messo in uno sceno assurdo calderone mass mediatico e giuridico, fatto di eversione dell'ordine democratico, associazione sovversiva, banda armata, terrorismo. Frasi vuote in bocca ai giudici e giornalisti. Sono anarchico, anti-organizzatore, perché contrario ad ogni forma di autorità e costrizione organizzativa. Sono nichilista, perché vivo la mia anarchia oggi e non nell'attesa di una rivoluzione che, seppure verrà, creerà solo nuove autorità, nuova tecnologia, nuova civiltà. Vivo la mia anarchia con naturalezza, gioia, piacere, senza alcuno spirito di martirio, opponendo tutto me stesso a questo esistente civilizzato che mi è insopportabile. Sono antisociale, perché convinto che la società esiste solo sotto il segno della divisione tra dominanti e dominati. Non aspiro ad alcuna futura paradisiaca alchimia socialista, non ripongo fiducia in nessuna classe sociale. La mia rivolta senza rivoluzione è individuale, esistenziale, totalizzante, assoluta, armata. In me non vi è alcuna traccia di superomismo, nessun disprezzo nei confronti degli oppressi, del popolo, convinto che, come dice un detto orientale, non bisogna disprezzare se perde perché non ha le corna. Un giorno potrebbe trasformarsi in drago. Allo stesso modo uno schiavo può trasformarsi in un ribelle, un solo uomo, una sola donna, farsi incendio devastante. Con tutte le mie forze disprezzo i potenti della terra, siano essi politici, scienziati, tecnocrati, capipopolo, leader di ogni risma, burocrati, capi militari e religiosi. L'ordine che voglio abbattere è quello della civilizzazione che giorno dopo giorno distrugge tutto ciò che, per il quale vale la pena vivere. Mi sono perso il segno. Stato, democrazia, classi sociali, ideologie, religioni, polizia, eserciti, il vostro stesso tribunale sono ombre, chimere, ingranaggi tutti sostituibili di una mega macchina che tutto comprende. La tecnologia un giorno farà meno di noi, trasformandoci tutti in automi sperduti in un panorama di morte e desolazione. Quel 7 maggio del 2012 per un momento ho gettato sabbia nell'ingranaggio di questa mega macchina, per un momento ho vissuto appieno facendo la differenza. Quel giorno non ero una vecchia Tokarev, la mia arma migliore, ma l'odio profondo, feroce, che provo contro la società tecno-industriale. Ho firmato l'azione come FAI FRI perché mi sono innamorato di questa lucida follia, fattasi concreta poesia e a volte brezza, a volte tempesta, che soffia caotica per mezzo mondo, imperterrita, improbabile, contro ogni legge, contro ogni buonsenso, contro ogni ideologia, contro ogni politica, contro ogni scienza e civilizzazione, contro ogni autorità, organizzazione e gerarchia. Una visione dell'anarchia concreta che non prevede teorici, dirigenti, leader, quadri soldati, eroi, martiri, organigrammi, militanti e tantomeno spettatori. Per anni ho assistito all'evoluzione di questa nuova anarchia rimanendo di fatto solo spettatore. Per troppo tempo sono rimasto a guardare. L'anarchia, se non si fa azione, rigetta la vita ridiventando ideologia, merda o poco più. Nel migliore dei casi sfogo impotente per uomini e donne frustrati, decisi di passare all'azione dopo il disastro nucleare di Fukushima. Davanti a fatti così grossi troppo spesso ci si sente inadeguati. L'uomo primitivo fronteggiava i pericoli, sapeva come difendersi. L'uomo moderno, civilizzato, davanti alle costrizioni della tecnologia, è inerme, come pecore che cercano protezione nel pastore che le macellerà. Così noi civilizzati ci affidiamo ai sacerdoti laici della scienza, gli stessi che ci stanno lentamente scavando la fossa. A Dinolfi lo abbiamo visto sorridere sognone dagli schermi televisivi, atteggiandosi a vittima. Lo abbiamo visto dare lezioni nelle scuole contro il terrorismo. Ma io mi chiedo, cos'è il terrorismo? Un colpo sparato, un dolore intenso, una ferita aperta o la minaccia incessante continua di una morte lenta che ti divora da dentro? Il terrore continuo, incessante, che una delle sue centrali nucleari ci vomita addosso da un momento all'altro, morte e desolazione. L'azzardo nucleare e finmeccanica hanno enormi responsabilità, i loro progetti continuano a seminare morte dappertutto. Ultimamente si parla di possibili investimenti nel raddoppio della centrale di Krško. Abbiamo l'esperta qui in Slovenia, a due passi dall'Italia, zona a grande rischio sismico. In Cernanova, Romania, dal 2000 ad oggi diversi sono stati gli incidenti procurati dalla debanaggine dell'azzardo durante la costruzione di una loro centrale. Quante vite spezzate, quanto sangue versato, tecnocrati di azzardo e di finmeccanica dal sorriso facile e dalla coscienza pulita, il vostro progresso puzza di carogna. La morte che seminate per il mondo grida vendetta. Sono tanti i modi di opporsi concretamente al nucleare: blocchi dei treni che trasportano scorie, sabotaggi ai tralicci che trasportano energia elettrica prodotta dall'atomo. A me venne in mente di colpire il maggior responsabile di questo scempio in Italia, Roberto Adinolfi, amministratore delegato di Ansaldo Nucleare. Ci volle poco a scoprire dove abitava, 5 appostamenti bastavano. Non c'è bisogno di una struttura militare, di un'associazione sovversiva o di una banda armata per colpire. Chiunque, armato di una salda volontà, può pensare l'impensabile e agire di conseguenza. Avrei fatto tutto da solo, sfortunatamente avevo bisogno di un aiuto per la moto. Chiesi a Nicola, feci appello alla sua amicizia e non si tirò indietro. La pistola la comprai al mercato nero, 300 euro. Non servono infrastrutture clandestine o grandi capitali per armarsi. Partimmo in auto da Torino la notte prima, tutto filò liscio o quasi, Nicola alla guida, io colpì esattamente dove avevamo deciso di colpire. Un colpo preciso, la mia corsa verso la moto e poi l'imprevisto, l'urlo pieno di rabbia di Adinolfi, la frase urlata che mi immobilizzò facendomi perdere preziosi secondi, bastardi, so chi vi manda. In quel preciso momento ebbi la certezza assoluta di aver colpito nel segno, pienamente cosciente dell'etamaio in cui avevo messo le mani. Interessi milionari, finanza internazionale, la politica, il potere, fango e letame. Quei secondi rubati permisero ad Adinolfi di leggere una parte della targa, che per inesperienza non avevamo coperto. Grazie a quei numeri risalirono alla moto e alla telecamera. Volevo leggerlo tutto di un colpo, lo sto leggendo tutto di un colpo. Allora, un po' d'aria, ora, vai, si riparte. Non basterà certo la condanna di questo tribunale a fare di noi i cattivi terroristi e di Adinolfi e Finmeccanica i benefattori dell'umanità. È arrivato il momento del grande rifiuto fatto di pluralità di resistenza, ognuna delle quali è un caso speciale. Alcune sono possibili, necessarie, improbabili, altre sono spontanee, selvagge, solitarie, concertate, prorompenti o violenti. La nostra è stata solitaria e violenta. ne è valsa la pena? Sì, forse solo per la gioia che abbiamo provato nell'apprendere del sorriso di sfida che Olga Economidu, coraggiosa sorella della cospirazione delle cellule di fuoco, in una cella di isolamento di un carcere greco, alla notizia della nostra azione ha gettato in faccia ai suoi carcerieri. Sono felice di essere quel che sono. Ogni tanto perdo il segno. Allora, dove ero arrivato? Perché sono un uomo libero. Allora, sono felice di essere quel che sono, un uomo libero, anche se momentaneamente in catena. Non posso lamentarmi più di tanto, visto che la stragrande maggioranza della gente le catene le ha ben piantate nel cervello. Nella mia vita ho sempre cercato di fare quello che reputavo giusto e mai quello che conveniva. Le mezze misure non mi hanno mai convinto. Ho amato molto, ho odiato molto. Proprio per questo non mi arrenderò alle vostre sbarre, divise, armi. Mi avrete sempre come irriducibile, fiero nemico. Non sono solo, gli anarchici non sono mai soli, solitari a volte, ma mai soli. Mille progetti nella testa, una speranza nel cuore che continua a vivere sempre più salda e sempre più condivisa, concreta, in prospettiva, che rischia di cambiare la faccia dell'anarchia nel mondo. Piccoli, grandi smottamenti che un giorno scateneranno un cataclisma. Ci vorrà tempo, non importa. Per adesso mi godo il terremoto scatenato in me da tutta questa voglia di gioire e lottare. Concludo con una citazione di Martino, Marco Kamenich, guerriero mai piegato, per il suo profondo amore per la vita da più di 20 anni prigioniero, rinchiuso oggi in un asettico carcere svizzero. Faccio mie queste parole. Il coraggio di pensare le cose fino in fondo, trasgredire il divieto di polizia, tecnologia dell'impossibile o dell'inconcepibile, di pensare altro e in altro modo agendo di conseguenza. Solo questo può condurci fuori dalla tiepida rotaglia tossica della modernità, nei luoghi dove niente e nessuno ci guiderà, nel luogo senza sicurezze, nel luogo della responsabilità in prima persona per la non sottomissione, con tutte le sue conseguenze. La libertà è dura, è pericolosa e non c'è vita senza la morte. Per timore della vita spesso ci rassegniamo in schiavitù all'annientamento. Morte alla civilizzazione, morte alla società tecnologica, lunga vita alle CCF, lunga vita alla FAI-FRI, viva l'internazionale nera, viva l'anarchia, Alfredo Cospito. E questa era la lunga dichiarazione di Alfredo, che come dicevo prima aveva iniziato a leggere e poi l'hanno buttato fuori dall'aula. Poi dopo, ora ci ascoltiamo un brano musicale prima di attaccare subito con quella di Nicola, c'è da prendere anche un attimo di respiro, anche non la leggerò io, ho assunto radiazione da oggi in poi, da lavoro alle ragazze dell'est, da lavoro alle ragazze dell'est, visto che si parla anche di centrali in Slovenia, noi abbiamo scelto una croata così per la pronuncia, per farsi aiutare, per... insomma, no, va bene, a parte gli scherzi, la prossima non la leggo io mi faccio un litro d'acqua, purtroppo non c'è il cicchetto, non c'è il macello, quindi va bene, facciamo una cosa, ascoltiamoci il brano, poi dopo si torna qua, si legge anche quella di Nicola e poi si fa una chiacchierata in base alle dichiarazioni, è una cosa che praticamente viene in Italia da che sono nato io, è la prima volta che due compagni anarchici rivendicano un attacco del genere. Quindi allora ci ascoltiamo un brano, nemmeno a farlo apposta, Declaration of War, ora sono gli Hardwire, poi si torna qui e leggiamo subito la dichiarazione di Nicola Gai. continuiamo con il testo di Nicola, che parte con una citazione che non è molto usata nell'ambiente anarchico. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. La verità ti fa male, lo so. Penso che è stata la prima volta che questa citazione è stata utilizzata. A differenza di tanti molti altri filosofi che spesso vengono citati nei testi, ma insomma passiamo direttamente alle parole di Nicola. Poche parole per affermare alcuni semplici dati di fatto prima che la verità, tra virgolette, venga stabilita in sede processuale. Nel caso non fosse chiaro, il termine verità l'ho usato con un'accezione ironica. Infatti non riconosco altro tribunale al di fuori della mia coscienza. Gli unici responsabili di quanto è avvenuto a Genova il 7 maggio 2012 siamo io e Alfredo. Nessun altro, tra amici e compagni, era al corrente di quanto stavamo progettando e poi abbiamo realizzato. Per quanto scaviate nelle nostre vite e le nostre relazioni per cercare altri complici del misfatto, non potrete mai dimostrare il contrario. Certamente ci proverete, ma in tal caso non si tratterà che di falsità e del tentativo di incastrare qualche nemico dell'esistente. Capisco che per chi ha dedicato la sua vita a servire l'autorità non sia facile arrendersi all'idea che due individui, armati solo della propria determinazione, possano decidere di provare ad inceppare gli ingranaggi del sistema tecno-industriale invece di contribuire disciplinamente a farli girare. Ma le cose stanno semplicemente così. Dopo anni passati ad assistere alla sistematica distruzione della natura e di tutti gli aspetti che rendono la vita degna di essere vissuta ad opera del mai troppo decantato sviluppo tecnologico, anni trascorsi a seguire con interesse, ma sempre da spettatore, le esperienze di quei ribelli che anche in questo modo che sembra pacificato continuano ad alzare la testa per affermare la possibilità di una vita libera e selvaggia. Dopo il disastro di Fukushima, quando Alfredo mi ha proposto di aiutare nella realizzazione dell'azione contro l'ingegnere Adinolfi, ho accettato senza esitazione. Finalmente potevo manifestare concretamente il mio rifiuto per il sistema tecno-industriale, smetterla di partecipare a proteste simboliche che troppo spesso non sono altro che manifestazioni di impotenza. Nessuno con un minimo di ragionevolezza può illudersi che l'esito di un referendum o le cialtronerie di qualche guru della green economy possono cancellare anche solo gli aspetti intrinsecamente più nefasti del mondo in cui siamo costretti a vivere. È sotto gli occhi di chiunque voglia vedere che Finmeccanica, con la sua controllata, continua a produrre armi di distruzione di massa. Semplicemente lo fa fuori dai confini italiani, come se le radiazioni rispettassero quelle infami barriere. In Romania, Cernadova, sfortunata località nota principalmente per gli innumerevoli incidenti accorsi alla centrale, Slovacchia ed Ucraina, solo per citare gli investimenti più recenti e diretti, Ansaldo nucleare continua a seminare morte e ad contribuire alla distruzione della natura. Come dovrebbe essere evidente a tutti, con altre 190 centrali nucleari solo in Europa, il problema non è chiedersi se possa avvenire un'altra Chernobyl, ma solamente quando questo accadrà. E come se ciò non bastasse, non dobbiamo dimenticare che tali mostruosità non uccidono solo quando sono in funzione, ma pure con le loro scorie. Queste vengono trasportate avanti e indietro attraverso l'Europa senza che nessuno sappia realmente cosa farne. Quelle delle centrali italiane, spente da decenni, vengono a tutt'oggi trasportate in Francia per essere messe in sicurezza. Ne ricavano combustibile per alimentare altri reattori e anche qualche chiletto di plutonio che può essere utilizzato solamente per costruire bombe. Tanto per ricordarci che quando si parla di nucleare non vi è differenza tra uso civile e militare. Poi ce la rimandano pericolose pressoché quanto prima. A questo proposito, chissà mai cosa se ne faranno gli americani dell'uranio trasferito negli USA quest'estate in gran segreto da un deposito di scorie in Basilicata. Potrei stare ora ore a parlare dei danni e delle distruzioni causate dal nucleare, fare innumerevoli esempi, ricordare quello che sta succedendo a Fukushima, dove, a detta di qualcuno, nessun morto era imputabile alla centrale. Ma non sono qui a cercare giustificazioni. Il nucleare è forse l'elemento di questo mondo civilizzato dove l'insensatezza e la mostruosità del sistema tecno-industriale può essere comprensibile a chiunque, ma dobbiamo renderci conto che sull'altare dello sviluppo tecnologico stiamo immolando ogni presidio della nostra libertà individuale e della possibilità di vivere una vita realmente degna di essere vissuta. Ora sta solamente ad ognuno di noi decidere se essere sudditi, obbedienti o provare a vivere qui ed ora il rifiuto dell'esistente. Io la mia scelta l'ho fatta con gioia e senza rimorsi. Noi usciremo di qui bollati come terroristi. La cosa divertente è che potrete affermarlo senza sentirvi ridicoli. Lo dice il codice penale. Quello che è certo è che le parole non hanno più alcun significato. Se noi siamo terroristi, come definireste chi produce armi, sistemi di puntamento per missili, droni, cacciabombardieri, equipaggiamenti per cacciare uomini che tentano di varcare un confine, centrali nucleari, che tratta alla pari con assassini in divisa e rinomati dittatori? Insomma, come definireste Finmeccanica? Certo, nemmeno i vostri mandanti brillano per fantasia, tanto che, per fugare eventuali dubbi sulle reali funzioni di questa azienda, recentemente ne hanno messo a capo l'ex poliziotto Gianni De Gennaro, vista la sua responsabilità nelle torture di Bolzanetto e nel massacro della Diaz in quanto capo della polizia durante il G8 del 2001. Hanno logicamente pensato che fosse l'uomo giusto al posto giusto. Allora la spezzettiamo qua, perché quella di Nicola è un pochino anche più lunga rispetto a quella di Alfredo. Ci ascoltiamo un brano, poi dopo si torna qua con la seconda parte della dichiarazione di del compagno Nicola Gai. Poi ci ascoltiamo un brano di Combi Christ, Fuck That Shit, nemmeno a fare la posta, poi dopo seconda parte di Nicola Gai. continuiamo con la seconda parte del testo di Nicola. Tornando al motivo di questa mia dichiarazione, vorrei fare qualche precisazione in merito alla brillante operazione che ha portato al nostro arresto. Chissà quante strette di mano e pacche sulle spalle si sono presi gli astuti segugi che sono riusciti a mettere a frutto un nostro unico quanto fatale errore, dettato da inesperienza e dall'urgenza di fare qualcosa dopo il disastro di Fukushima. Infatti, non ci siamo accorti di una telecamerina piazzata dallo zelante padrone di un bar a protezione dei suoi tramezzini. Purtroppo per noi non l'abbiamo vista mentre studiavamo il percorso che dal punto in cui abbiamo lasciato il motorino portava alla fermata dei bus che dopo un cambio ci avrebbero portato alla periferia della città nella direzione di Arenzano, dove era parcheggiata la mia macchina che abbiamo usato per raggiungere e lasciare Genova. A dir tutta la verità, quello della telecamera non è stato l'unico errore commesso. Abbiamo anche perso istanti preziosi al momento di allontanarci dal luogo dell'azione. Il grido rabbioso dell'apprendista stregone dell'atomo. Bastardi, so chi vi manda, ci ha paralizzati. Non sto certo a me avanzare ipotesi sul significato di quella frase. Il momento non favoriva pacati ragionamenti e, tantomeno, è mio costume costruire castelli in aria sulle parole pronunciate da un'altra persona, ma personalmente ne ho tratto la conclusione che avevamo affondato le mani in una montagna di merda. Tutti gli altri elementi che hanno giustificato la nostra detenzione o sono distorti o semplicemente falsi. La famosa intercettazione del pistolone, in cui avrei affermato di aver sparato, è assolutamente incomprensibile. Ora è inutile coinvolgere periti per smontarla, ma essendo stato alla guida del motorino è impossibile che possa aver impugnato anche la pistola e, oltretutto, mi pare logicamente assurdo che mi sia messo a raccontarlo proprio a chi aveva partecipato con me all'azione, cioè Alfredo. Sulla stampante, sequestrata a casa dei miei genitori, che la polizia scientifica affermava essere quella usata per stampare il volantino, c'è poco da dire, perché il computer e la stampante li ho comprati io e li abbiamo distrutti dopo l'uso. La cosa da notare è che una volta che il riesame aveva confermato i nostri arresti, gli stessi scienziati del RIS si sono accorti che probabilmente non era la stessa. Per quanto riguarda il furto del motorino, per il quale procedete contro di noi e fantomatici ignoti, le cose sono meno complicate di quanto vi sforzerete di ricostruirle. Abbiamo girato per la città cercando di risolvere il problema, visto che non avevamo alcuna esperienza con tale pratica. La fortuna, come si sa, aiuta gli audaci. Infatti, nella mena località di Bolzanetto, ci siamo imbattuti in uno scooter con le chiavi dimenticate inserite nel quadro. Le abbiamo prese ed abbiamo deciso di tornare dopo qualche giorno con un casco. La moto era ancora parcheggiata nello stesso posto. Mi è bastato salire in sella, accendere e portarla dalle parti del cimitero di Staglieno, dove è rimasta fino a 15 giorni prima dell'azione, quando l'ho spostata nei pressi dell'abitazione dell'ingegnere Dinolfi. Mi scuso con il proprietario per l'averla svuotata dai caschi e dagli altri oggetti che c'erano sotto il sellino e per aver buttato il bauletto posteriore. Purtroppo erano d'impiccio. E, decisamente, non era salutare l'idea di cercare di restituirli. Un altro elemento su cui gli investigatori hanno ricamato, e temo cercheranno di utilizzare da bravi inquisitori in futuro, è un'intercettazione realizzata a CSR di Napoli, in cui alcuni compagni commenterebbero in volantino che avrebbero ricevuto, in anteprima mondiale, via posta elettronica. Non ho idea di cosa parlassero, non sto a spiegare come il dialogo sia di difficile comprensione, a dir poco, e neppure è il caso di soffermarsi sull'evidente assonanza tra Valentino e volantino, ma so per certo che il comunicato è stato spedito solamente per posta ordinaria. Abbiamo imbucato le lettere durante il cambio bus sulla via del ritorno, in una casetta postale sul lungomare nei pressi del terminal traghetti. Quindi è semplicemente impossibile che l'abbiamo ricevuto tramite email. So per certo che userete il nostro caso per dare l'esempio, che la vendetta sarà draconiana, che farete di tutto per isolarci. Basta dire che è più di un anno che la nostra corrispondenza è sottoposta a censura. Ma voglio darvi una cattiva notizia, si tratta di sforzi inutili. Sono perlomeno 150 anni che giudici, anche più feroci di voi, cercano di cancellare l'idea della possibilità di una vita libera dall'autorità, ma con scarsi risultati. Posso tranquillamente assicurarvi che le vostre azioni repressive, per quanto ad ampio spettro, per quanto indiscriminate, non potranno disarticolare o debellare alcunché. Se pensate di arrivare, grazie a noi, ad altri anarchici che abbiano deciso di sperimentare la possibilità caotica, spontanea ed informale della FAI, vi sbagliate di grosso e non potrete che fare l'ennesimo buco nell'acqua. Né io né Alfredo conosciamo alcuno che abbia fatto questa scelta. State dando la caccia ad un fantasma che non potete richiudere nelle anguste caselle dei vostri codici. Questo perché esso si manifesta nell'istante in cui le tensioni distruttive di coloro che l'animano si uniscono per agire, nel momento in cui donne e uomini liberi decidono di sperimentare concretamente l'anarchia. Ora che l'esperienza del nucleo Olga si è conclusa, posso solamente assicurarvi che ho trovato nuove ragioni per alimentare il mio odio e motivi per desiderare la distruzione dell'esistente, fatto di autorità, sfruttamento e distruzione della natura. Amore e complicità per le sorelle e fratelli che con le loro azioni in ogni parte del mondo rendono reale il folle sogno della FAI-FRI. Amore e complicità per le compagne e i compagni che, anonimamente o meno, continuano ad attaccare in nome della possibilità di una vita libera dall'autorità. Amore e libertà per tutti i prigionieri anarchici. Viva l'Internazionale Nera dei refrattari all'ordine mortifero della civilizzazione. Viva l'anarchia. Nicola Gai, Ferrara, settembre 2013. E questa era, con questa abbiamo concluso anche la dichiarazione di Nicola fatta al tribunale ieri 30 ottobre. Come dicevo prima, è la prima volta che ricordo io, ma penso molti miei coetanei, ma penso anche qualcuno molto più grande di me, che venga rivendicata un'azione da compagni anarchici, un'azione del genere da compagni anarchici. Leggendo i testi di Alfredo e Nicola si nota la lucidità che hanno i due compagni nel rivendicare questo attacco, farlo non attraverso, cioè non si parla della rivendicazione quella famosa del nucleo Olga all'indomani del ferimento di Adinolfi, ma parlo delle dichiarazioni, a me era piaciuta pure quella. Firma sottoscritto con tanto di critica al movimento e tutto il resto. Io parlavo più altro per la lucidità che hanno avuto nel dichiarare la loro responsabilità in questo attacco, andando a colpire nel profondo, andando a spiegare per bene all'operato che fa questo signor Zoppo Roberto Adinolfi, amministratore delegato dell'Anzato Nucleare. Tant'è vero che praticamente nessun giornale si è sognato di pubblicare le dichiarazioni sia di Alfredo che di Nicola, che potrebbero essere molto pericolose, ma non perché potrebbero incrementare la violenza, ma perché vanno a spiegare per bene l'operato dell'Anzaldo Nucleare, di Finmeccanica e di Roberto Adinolfi, che è quello che gestisce l'amministratore delegato, per l'appunto. In più tolgono dubbi a un po' di persone, specialmente Nicola, in cui spiega perfettamente tutto come è avvenuto, anche per quanto riguarda il probabile coinvolgimento di altri compagni che erano stati presi di mira. Fortunatamente, cioè, erano uscite solo intercettazioni per quanto riguarda il centro studi libertari Luis Michel a Napoli, dove attraverso le microspie erano stati presi questi stralci di intercettazione in cui i compagni si stavano organizzando per fare dei lavori, siccome Luis Michel è l'archivio dove c'è la biblioteca, c'è tutto il punto di distribuzione di libri, materiale anarchico. C'è un altro spazio che dista pochi metri dal centro studi libertari, che è il 76A, lo spazio anarchico 76A. stavano facendo, si dovevano fare dei lavori nel 76, si doveva aggiustare un lavantino, dal lavantino è volato un volantino, nemmeno a farla apposta i lavori dovevano iniziare il lunedì che era il 7 maggio, quindi tutto il ritaglio delle intercettazioni, il lavantino che diventa volantino, il 7 maggio che in cui devono iniziare i lavori viene ferito Adinolfi, quindi penso che Nicola in questo scritto abbia, cioè, non è che lo deve andare a dire ai giudici, perché i giudici e la magistratura, se vuole, può continuare il suo accanimento su queste cazzate, però comunque un attimino, visto che hanno fatto un gesto, i due compagni si sono presi la responsabilità anche di un iter processuale diverso, più breve, rito abbreviato, quindi era giusto andare a spiegare, andare a rivendicarselo e andarlo a dire anche scrivendo certe cose, cioè andando nei dettagli, andando a smontare pure qualche cazzata che viene scritta sugli atti giudiziari, insomma. Comunque a me sono piaciuti tutti e due gli scritti, è inutile dirlo, poi conoscendo i due compagni da anni non avevo dubbi su quello che possono pensare, su quello che possono scrivere, quindi diciamo l'avevo, cioè mi erano arrivati, mi sono arrivati e li stavo già pubblicando senza leggere, poi ovviamente l'ho letti pure prima, però non ce n'era bisogno. Poi quando riguarda, ora penso che attraverso questa rivendicazione si apre un nuovo capitolo in Italia per quanto riguarda il movimento anarchico, perché fino all'altro ieri anche più paraculi parlavano di certi attacchi come fatti da servizi segreti per lavarsi le mani, oppure non se ne parlava, si evitava, si riteneva chi portava avanti questi attacchi degli appestati. Quindi da oggi, secondo me, da oggi già, ma già da domani si apre un nuovo capitolo in Italia per quanto riguarda il movimento anarchico, perché sono anni che si sentono voci grosse, ma solo sulla carta stampata, oppure su qualche blog, cioè su qualche blog, sui blog, sui siti, ora si usano blog e siti, anche in radiazione lo è uno di questi, per l'appunto. Quindi vengono usati termini, molto spesso sono stati molto grossi, più termini che quello che accadeva fuori. Si è parlato sempre di azione diretta, per l'azione diretta, si è parlato sempre di distruggere il carcere, le galere, contro lo Stato. Ora c'è qualcuno che ha dato un segno che certe cose, anche se non si scrivono, certe cose è molto meglio farle arrivare al succo che a perdere il tempo a scriverle. Quindi sommando le parole, sommando gli individui che negli anni scrivono di azione diretta contro lo Stato, contro le galere, fuoco a questo, fuoco a quell'altro, vediamo, secondi iniziano a tornare da oggi al domani più prossimo. Poi volevo ricordare un'altra data importante, perché tra 5 giorni ci sarà l'udienza preliminare per l'inchiesta, quella di Perugia, per quanto riguarda l'operazione Ardire. Ricordo, è solo quella di la parte riguardante il filone di Perugia, non quella di Milano. Vuoi aggiungere qualcosa tu? No, grazie, hai detto tutto tu, non avrei altro da aggiungere. Ah, una cosa buona è accaduta questa volta, che forse non, cioè, almeno questa volta almeno già solo leggendo siti e blog anarchici italiani, tutti hanno pubblicato i testi di Alfredo e Nicola per intero. non era avvenuto con quello della rivendicazione del nucleo Volga, questa volta è avvenuto. Quindi, sommandolo già all'intervento dei compagni ieri al processo, lo ricordo, cioè, almeno dai numeri che leggo sui giornali, c'erano 200 persone. Può essere che qualcosa stia cambiando, speriamo. Detto da un pessimista, come vengo additato normalmente, mi fa pensare che qualcosa stia cambiando, almeno già nel modo di portare fuori certe forme, perché a volte, cioè, pubblicare un testo non costa un cazzo, cioè si rischia più andare a fare la passeggiata in montagna che a pubblicare un testo, e infatti penso che diano ragione a queste parole proprio nell'ultimo anno. Ora ci ascoltiamo un brano, Bullet from Gun. Oggi sarà monotematico i testi dei brani, Bullet from Gun, Tito e Tarantola. Poi si torna qui e si leggerà, si resterà ancora sul caso di Alfredo e Nicola, perché i compagni genovesi hanno fatto avere questo mini opuscolo che hanno scritto in solidarietà con alcune riflessioni e tutto. Quindi Tito e Tarantola, Bullets from a Gun. E loro erano Tito e Tarantula con il brano Bullet from a Gun. Allora, dicevo, abbiamo finito di leggere le due dichiarazioni, quelle di Alfredo e Nicola. Dicevo, si resta ancora su questo tema, anche perché c'è un opuscolo, un mini opuscolo, che è quasi un testo, un documento, diciamo un documento fatto da opuscolo dei compagni genovesi, che ci hanno fatto avere, su Radiazione. Lo trovate sia in versione testo, così come appaiono altri articoli, e sia sotto all'articolo, in fondo all'articolo trovate anche il link per ci cliccate sopra e lo scaricate in versione cartacea. Allora, poi penso che si possa passare pure direttamente al testo. Lo dividiamo in due parti, leggo io i primi due paragrafi, il testo lo legge la persona che sta a fianco a me, i nomi non si fanno, solo quello di Marcello, perché Marcello se lo merita. No, chiamiamolo trattino MA, che è meglio. Quindi allora, quindi dicevo, si leggono i primi due paragrafi, poi facciamo un breve stacco con un brano e poi dopo si torna qui con la seconda parte dell'opuscolo dei compagni genovesi. Iniziamo. Solidarietà per Alfredo e Nicola. La rassegnazione è morte, la rivolta è vita. Anarchia, parola di origine greca che vuol dire assenza di governo e o assenza di comando. Non siamo anarchici, anarchiche, per mancanza di un governo. Io mi scuso con i compagni genovesi, io faccio un solo plurale, per femminile e maschile, altrimenti mi impappino leggendolo. Per mancanza di un governo, ma perché non ne vorremmo mai uno che sia di destra o di sinistra? Il governo implica sottomissione, delega, accentramento di potere. Da queste poche righe si capisce che nessun anarchico sarà mai amico di chi fa le leggi e di chi le fa rispettare. Quindi è altrettanto ovvio che gli anarchici e le anarchiche saranno sempre un nemico del potere, qua m'hanno fregato, dei borghesi e dei loro servi. Perciò è inutile pensare che chi è contro lo strapotere dei padroni possa avere vita facile. Infatti nessuno dei compagni o compagni arrestati, imputati e indagati pensa di essere vittima di qualche sopruso, perché se no saremmo noi gli stupidi. Ogni giorno questo pianeta e la stragrande maggioranza di persone che ci vive sono vittime di ingiustizie. Milioni di persone muoiono di fame, di sete o vengono uccise da guerre inutili create per ottenere dei profitti degli stati e le industrie che producono morte conoscono bene. Noi semplicemente rileviamo e mettiamo a fuoco le cause responsabili di questi fatti e ci auspichiamo che tutti questi esseri viventi focalizzino l'origine del loro problema. Abbattere il potere e non modificarlo è la soluzione più ovvia. Semplicemente diciamo ciò che ci sentiamo dentro. Siccome noi non abbiamo padroni a cui dobbiamo rispondere, i magistrati ci infliggono condanne, ma noi saremo sempre liberi dentro il nostro cuore, e finché ci saranno i compagni fuori a proteggere dagli aguzzini chi si ritrova nelle loro mani, l'anarchia avrà modo di esistere. D'altronde non saranno queste ridicole divise che ci sottomotteranno, visto che sono più di 100 anni che sopportiamo tutto questo e rispondiamo colpo su colpo. Oggi ci riproviamo a portare solidarietà ai compagni che sono stati incarcerati e inquisiti per l'attentato ad Adinolfi, amministratore delegato di Finmeccanica, esattamente una di quelle aziende che fanno di guerre e nucleare il loro punto di forza. È inutile dire che siamo con loro, contro la repressione che li ha colpiti. Ora, dopo questa prima parte, ci ascoltiamo un brano, non lo manderemo per intero, altrimenti si perde il filo con il resto dello scritto, e poi dopo si torna qui e si continua a leggere l'opuscolo dei compagni genovesi. this monster lie prevail by daring to fail. Others content just to sail. Hail the future we bring. We bring chaos to watchmen, riot to watch for watch brats. Taking the clan off the pavement, create the pace that you all will follow. Spell right and flow, buckles up like a calico. Hey, we deal, smoke, sense, and neo, vodka, and zeal. Get ease the real deal, huh, your flubber never had to suffer. Life's getting hard and it's only getting rougher. Save some for me, gas up while walk on pay. Walk with me and see. Parliamo di solidarietà attiva e quindi diretta, perché in passato molte sono state le critiche verso i compagni o le compagne che usavano strumenti e mezzi dichiarati non affini a una lotta anarchica, come se qualcuno avesse il diritto di dire che una pietra contro uno sbirro è accettabile, ma un proiettile è da condannare. Ebbene, visto che queste critiche persistono, ahimè, e non sono state di poco conto quelle dopo l'attentato ad Adinolfi, continuando di questo passo un domani non andrà bene neanche tirare una pietra. Già di nemici ne abbiamo tanti, non vorremmo averne anche tra le nostre fila. Siamo con tutti compagni incarcerati senza distinzione di reato, visto che oggi la tendenza è quella di verificare il motivo per cui uno viene imprigionato. Queste distinzioni non tanto tempo fa le lasciavamo fare a chi con noi ha poco a che spartire. Oggi purtroppo non è così e lo dimostra l'isolamento che alcuni compagni stanno vivendo sulla loro pelle. Per questo motivo, ora più che mai è necessario esprimere una solidarietà attiva che sia vicina ai nostri compagni e compagne nel momento del bisogno e che sia pronta a dare risposte inequivocabili nel momento della repressione. La situazione dei compagni dentro non è buona, come ovvio che sia, subiscono trasferimenti, non permettono alle proprie compagne di fare i colloqui con loro e per questo motivo Sergio, un altro compagno che è stato arrestato con l'accusa di far parte della FAI, Federazione Anarchica Informale, ha portato avanti uno sciopero della fame per un mese e mezzo, tra l'altro senza ottenere i colloqui. Notizia dell'ultima ora. Quella aguzzina del PM che si occupa del procedimento Shadow, in cui sono inquisiti 6 compagni, di cui 2 in carcere, nella sua requisitoria ha chiesto la bellezza tra i 4 e i 10 anni di carcere. Da non dimenticare che l'intera operazione è coordinata dai ROS, con cui la Comodi va a braccetto e dei quali avalla ogni teoria. ROS, i porci che in passato, come nelle migliori democrazie, hanno contribuito a scrivere tra le pagine più oscure, degne di uomini in divisa. Oggi possiamo dire che l'intero impianto accusatorio è crollato, a parte Sergio, che è stato condannato a 3 anni e 3 mesi per furto d'auto, gli altri sono stati tutti assolti in primo grado. I 2 compagni comunque rimangono in carcere per altri 2 procedimenti in corso. Nessuno. Nessuno si aspetta un trattamento migliore. Non chiediamo a politici o scribacchini di intervenire. Noi ci rivolgiamo a chi sente necessario stare vicino ai nostri fratelli e sorelle che passano anni della loro vita dentro a delle gabbie schifose. Non commettiamo sbagli già avvenuti in passato, facendo noi delle differenziazioni tra chi sceglie un tipo di lotta rispetto a un'altra. Non caschiamo nel gioco voluto fortemente dalla magistratura e da parte di tutti quelli che non accettano diverse modalità di lotta. Un ribelle, un anarchico, non deve commettere certi sbagli. Solidarietà e complicità con tutti gli anarchici e le anarchiche arrestate per l'anarchia. Firmato Anarchix. Questo era lo scritto dei compagni genovesi, che io condivido in tutto, anche perché bene o male sono delle cose che a modo mio molto spesso ho scritto su Radiazione, sulla parte su quando riguarda prendere molto le distanze in modo molto paraculo da certe azioni, da certi modi di agire. Ricordiamo che solo, cioè, giusto da quest'estate, da quando sono partiti gli incontri a testa alta da luglio, che si è arrivati ad una a riuscire ad organizzare una presenza solidale al processo di Alfredo Nicola, si è iniziato a parlare un pochino di più per quanto riguarda i compagni che erano detenuti, cioè l'anno scorso già con gli arresti Ardire, voi per qualche differenza di veduta, la maggior parte degli anarchici, qualche testo uscito dal carcere c'è stata, però comunque già per quanto riguarda l'operazione Ardire si era venuta a mancare un po' la solidarietà. Quando sono state arrestate Alfredo e Nicola, apri di cielo, sono spariti tutti, si salvi chi può, tutti si sono nascosti, nessuno sul mi ricordo qualche scritto, ma giusto tre scritti penso, tra quello di Radiazione, quello dei compagni genovesi che rispondevano agli imbecilli che mettono i puntini su lei, penso che ci sia stato ben poca solidarietà anche scritta per quanto riguarda Alfredo e Nicola. Invece di dare solidarietà, invece si è continuato a parlare di metodo, qual è giusto, se è giusto rivendicare, se è giusto la firma, se è giusto l'anonimato, se è giusto il riproponibile, se non è giusto questo, se è giusto quell'altro, invece di darsi da fare, invece di almeno tramite lo scritto far sentire la vicinanza e parlare di quello che sta avvenendo in Italia da un anno a questa parte, perché ricordo che non sono solo l'Ardire e quella di Alfredo e Nicola come inchieste, ma ci sono altre inchieste, che tra Mangiafuoco, le zecche rosse, non lo so come si chiama, le zecche, non mi ricordo, c'ha il nome in latino della zecca, le zecche rosse forse è un lapsus, è dovuto al lapsus. Ma non andiamo oltre, perché altrimenti qua si offende qualcun altro e non sta bene. Insomma, sì, si condivide tutto lo scritto dei compagni genovesi, perché bene o male è la stessa cosa che penso io, di quello che do un po' critico da un po' di anni, cioè un po' di anni a questa parte, ma nell'ultimo anno in particolar modo. Tu fai scena muta, vuoi creare nemici solo a me o ne vuoi fare anche tu qualcuno, parlando di cosa avviene in casi del genere fuori? Beh, cosa avviene in casi del genere fuori si è visto, cioè come dice subito all'inizio, cioè, quindi lanciare una pietra contro uno sbirro è accettabile, ma un proiettile è da condannare, cioè questo vuol dire porsi insomma da giudici verso chi l'azione la fa, cioè in un ambiente insomma anarchico, cioè nel momento di quando c'è bisogno di esprimere la solidarietà, si inizia a criticare il metodo, se sia violento o meno violento, come dicevi tu, se sia anonimo o non è anonimo, firme, eccetera, eccetera. Quindi invece di agire si preferisce apporsi, cioè porsi su un piedistallo, infatti, e condannare quindi il lato in sé, che insomma porsi allo stesso livello di del giudice in quel momento quando l'azione è stata fatta. Sì, poi cioè, vabbè, comunque io spero che da ora in poi, con questa presenza che c'è stata al processo di Alfredo e Nicola, si inizia a rimettere in moto un po' di solidarietà, anche come c'è stata ieri al processo in Italia, perché manca da tanto tempo, come mancava da tanto tempo il confronto. Il confronto che mancava era dovuto, è dovuto alle varie suddivisioni che tuttora il movimento anarchico fa fatica a dire che c'ha. Io lo dico apertamente, ci sono le divisioni del movimento anarchico, ci sono i notav, c'è la parte, cioè perché nascondersi, che cazzo c'è? Sì, per non so, per tutti ci vogliamo bene, amore, sì, pace, fratelli, creiamo un movimento. A chi dice le cose storte va male, cioè chi dice la verità va ancora peggio. Sì, dovremmo essere tutti pecore nere, invece mi sembra che qua si forma un gregge di pecore bianche, e chi si permette di avanzare una critica è quello che viene espulso dal gregge e diventa una pecora nera. Insomma, non è bisogno neanche di espellere, insomma, uno si isola volontariamente e felicemente da un gregge simile. Questo è il mio caso. Io mi sono sempre isolato, appena ho visto che Grecia prendeva la direzione me ne è scappato dall'altro lato. E allora volevo dire un'altra, no vabbè, pure per quanto riguarda, cioè, questa mancanza di solidarietà mancata sia su, ultimamente si è parlato molto pure degli incontri a testa alta, si è parlato pure per quanto riguarda il metodo di comunicazione, per quanto riguarda la come far veicolare le notizie. Io ne sto parlando di te perché tu non ci sei mai stata, ovviamente eri da un'altra parte in Europa, quindi si è parlato del metodo di far veicolare le notizie. È stato attaccato pure internet, nonostante internet io penso che ultimamente, cioè, con tutto il male che gli voglio, essendo anche una mia contraddizione, gli voglio del male, vorrei vederlo fondere, però lo uso perché è un mezzo come di cui si conosce, no? Se conosciamo i limiti di un mezzo e il male, insomma, che questo mezzo rappresenta, senza idolatrarlo, non capisco perché non può essere utilizzato internet. Cioè, mi sembra come accanirsi nel passato contro la macchina di Gutenberg. Cioè, arriviamo alla stessa cosa, cioè, noi viviamo in un'epoca dove il computer e internet hanno preso il posto di macchina da scrivere e della stampatrice, e insomma anche chi stampa sulla carta non stampa sicuramente nello stesso modo di 50 o di un secolo, di 50 anni fa o di un secolo fa. No, e quindi non capisco perché la carta stampata dovrebbe avere tutto questo elogio in confronto a quello che viene scritto su una pagina online. Cioè, l'importante è la sostanza, e poi il modo di veicolare quello che c'è da dire o da scrivere possono essere in vari modi, come può essere scritto sulla carta e tanto può essere scritto su online. No, è anche più accessibile a un diciamo un pubblico autentico più larghi quando va online. sì, perché cioè il giornale tu comunque se non lo sai non lo richiedi, quindi non ce l'hai mai a portata di mano. Quindi cioè non capisco perché deve questo essere, cioè sembrare come una rete clandestina, no, del giornale. No, ora ti, cioè praticamente il discorso era generato sul fatto che la notizia sul blog, sul sito, attraverso internet è una notizia fredda che non provoca discussioni, mentre al contrario lo sarebbe un giornale. Però io da quello che ho visto ultimamente in Italia, cioè tra i giornali che ci sono, quello un pochino, cioè un pochino, no? Quello che ritengo più serio, nonostante le mie differenze su altri problemi che non so più raccontare, Vallo di Terra Selvaggia è l'unico giornale in Italia che esce ed esce in un certo modo, riesce a parlare di vari problemi, non hanno paura di pubblicare qualsiasi cosa, mentre altri giornali in Italia non lo fanno, no? Cioè altri giornali, altre riviste anarchiche in Italia non fanno questo, cioè, ciò si è potuto notare che quando c'è stata la mancanza di Terra Selvaggia, che è uscito ora con l'ultimo numero dopo un anno, altri giornali in Italia che hanno avuto a disposizione cose che sono state pubblicate anche sui blog, e quindi ti lavi le mani, perché su blog, su siti la cosa è più veloce, arriva la rivendicazione, sta là in due secondi il giornale, mentre vai stampa, mentre decide, mentre fa, c'ha tutto il tempo per aggiungere un foglio in più e pubblicare certe cose, invece molto spesso non viene fatto. Allora succede che il 7 maggio scorso viene ferito Adinolfi e viene presa parlato del ferimento di Adinolfi in modo molto ironico, che ci sta bene, l'ha fatto pure Nicola introducendo quel testo rivendicativo con una frase della canzone di Caterina Caselli, va bene prendere a fare dell'ironia su certe cose, però poi dopo se tu decidi di pubblicare quelle due righe in cui ironicamente racconti dell'avvenuto, secondo me dovresti pubblicare anche il testo di rivendicazione al momento che arriva il testo di rivendicazione. Non so se è arrivato ai giornali, però sicuramente è stato pubblicato sui siti e sui blog, e visto che il giornale dovrebbe essere quello che provoca la discussione, il confronto tra i compagni, doveva essere pubblicato anche sui giornali. Non è stato fatto con svariati motivi, non è stato fatto, chi non si trovava, chi non era d'accordo, fatto sta che alla fine dei giornali italiani che uscirono in quel periodo, di quel documento del Nucleo Olga non se ne sa, cioè hanno fatto finta di non sapere, chi parlava di terremoti, chi parlava di università, chi parlava degli anarchici del 500, chi parlava del non muos, della notav, insomma parlavano di tutto, però facevano finta di non è successo nulla. Però la responsabilità ce l'avevamo presi noi con i blog e siti, quelli che non creano discussioni, che non creano confronto. Ci siamo presi la responsabilità, tutti i blog e tutti i siti che l'hanno pubblicata, di metterla là. E quando si mette una cosa su blog o su un sito, cioè, gli stai dando, stai mettendo la rivendicazione, e sotto gli stai mettendo la carta d'identità, perché poi automaticamente i blog e i siti, se non c'è una struttura, vengono fatti nelle case dei compagni come radiazioni, viene fatta la casa dove abito, quindi automaticamente dai un IP, dai chi la sta mettendo, chi lo sa, oltre a fatto che dai tutte le informazioni, e quindi là ci stai mettendo la faccia. E non capisco chi pubblica il giornale, visto che la faccia non ce la mette, perché a parte i compagni, poi un giornale può uscire ed essere distribuito senza indirizzo per richiedere le copie, cioè lo puoi fare molto più clandestinamente, sì, se più molto anonimo, meno controllato, fai le fotocopie. Non capisco il perché non venga fatto sul cartaceo un certo discorso, visto che dovrebbe provocare discussioni. E questa, ho introdotto questo argomento della critica internet proprio perché comunque la mancanza di solidarietà è anche questa, perché se non ne parli sul giornale, se sui giornali continui a parlare di tutto tranne di quello che sta accadendo realmente, se mi parli di detenuti che stanno a Tolmezzo invece dei compagni che stanno detenuti a Ferrara ed Alessandria, vuol dire che prendi le distanze, vuol dire molto chiaramente che tu hai preso le distanze, non stai sostenendo un cazzo, non stai dicendo, cioè sta facendo spalle, sì, hai fatto molta spalle molto tranquillamente, non scendiamo nei termini. Vabbè, questa era un po' di discussione fatta in seguito alla lettura dell'opuscolo dei compagni di Genova, che ripeto sottoscrivo in pieno. Cioè, anche vorrei solo aggiungere che esistono anche dei siti che aggiungono in calce, che non condividono quello che stanno pubblicando. C'è anche questo da aggiungere, che è veramente un controsenso, un nonsense, perché se questo si trasforma in un'agenzia stampa, cioè pubblico ma non condivido tutto quello che ho pubblicato. C'è pure chi ha paura di pubblicare e rimanda i link di chi gli ha spedito le cose. C'è anche questo, come è accaduto ora con le dichiarazioni a Fede Nicola, non dico i nomi dei siti e dei blog, però è capitato anche questo, che viene spedito il testo e invece di pubblicarli hanno messo il link e l'hanno ridiretti tutti sulla reazione. A me me ne frega un cazzo entrare nella ricerca di Google, ringrazio i compagni che mettono le fonti e i link di riferimento, ma non me ne frega, cioè potete anche pubblicarlo voi, non c'è, basta un semplice copia e incolla, non c'è bisogno di traduzioni, di ribattere il testo, pubblicato, quindi cioè, che poi me li rimandi a me tutti quanti, sarà un intasamento del blog. No, poi mi fate vedere se, cioè, poi si incazzano quelli di Autistici Inventari, cioè, per favore, pubblicate le cose, pubblicatele. Allora, ora ci ascoltiamo un brano, poi dopo si torna qui con un'ultima notizia e poi un altro brano e vi mando a fanculo tutti, compreso i sottoscritti. Allora, il prossimo brano è Nizza Rap, Joint Chant, Omicidio al canto. Hey! Erano Nizzeleb con il brano Join the Chant. Sta andando ancora tutto, intanto noi andiamo avanti con l'ultima notizia di controinfo della giornata, della diretta d'azione di oggi, 1° novembre 2013, After Maya, sempre After Maya AM. Allora, si va in Russia, dove un anarchico è stato ferito da una bomba artigianale. Ilya Romanov, un uomo di 46 anni, anarchico russo, è stato ferito il 26 ottobre 2013 da una bomba artigianale che è esplosa improvvisamente tra le sue mani. L'incidente è avvenuto vicino ad un edificio dove ci sono gli uffici della Russian Army. La polizia locale ha dichiarato che la bomba artigianale è esplosa nelle prime ore del mattino di sabato nelle mani dell'anarchico. La sua mano sinistra è stata lacerata. L'uomo è stato portato in ospedale. Ilya Romanov è stato interrogato dalla polizia. Egli ha sostenuto che il dispositivo esplosivo fatto in casa era in realtà un petardo. I mass media si sono affrettati a scrivere sul RAI della polizia nell'appartamento di Ilya, in cui sono stati trovati testi di letteratura estremista e diversi agenti chimici utilizzati per la fabbricazione di ordigni esplosivi. Tuttavia, una fonte alternativa sostiene che la polizia non è riuscita a trovare qualcosa di interessante durante il raid e che invece i poliziotti hanno sequestrato solo una scatola di soda vuota, alcuni elementi da microscopi appartenenti alla figlia di Ilya di 16 anni e un barattolo di latta con sconosciuta sostanza bianca all'interno. Tuttavia la polizia ha fatto sequestrare un archivio di stampa di opposizione e lettere personali di Ilya, tra cui le lettere di quando era... Io dico un compagno, perché poi, cioè, questa la prendiamo da un sito di altri compagni. Quando il compagno era in carcere tra il 2002 e il 2012, il suo taccuino e la sua carta d'identità. Ilya Romanov fu arrestato nel 2002 e ha trascorso 10 anni in prigione. Tra le accuse contro di lui c'erano gli espropri di negozi di gioielli e gli uffici di cambio valuta, il traffico illegale di armi, attacchi esplosivi contro gli uffici della SBU ex KGB in Ucraina. Ilya ha rifiutato tutte le accuse, affermando di essere stato torturato fisicamente e mentalmente durante la custodia cautelare. Ha continuato lo sciopero della fame e si tagliò le vene nell'aula del tribunale. È stato rilasciato nel dicembre 2012. Questa è l'ultima notizia di controinformazione per oggi. Ricordiamo che il prossimo appuntamento con Radiazione è per lunedì 4 novembre, dove oltre alla controinformazione, alla musica e alla qualche provocazione, ovviamente radiazione, provocazione, fa rima pure, ci sarà anche la lettura della Zantraglia con Marcello. quindi appuntamento a lunedì 4 novembre ore 17 come al solito. Per chi poi vuole accendere la radio un'ora prima, alle 16 lo ricordo che va, c'è sempre una playlist musicale che va avanti. Ricordiamo ancora una volta gli indirizzi utili per radiazione, per chiunque vuole mandare qualsiasi tipo di testo, anche giornali online, buscoli, avvisarci di iniziative, a dare dei consigli sui libri da leggere che non arrivano mai, se vi piacciono i libri che leggiamo non ci arrivano mai, insomma tutto quello che non avete fatto mai fatelo. radiazione@autistici.org. invece per il blog, dove già da domani, no domani diciamo da dopodomani, potete andarvi a riascoltare la diretta d'azione di oggi, dove potete riascoltarvi tutte le altre dirette d'azione passate attraverso la categoria ascolta le dirette d'azione, dove potete andarvi a scaricare qualche opuscolo, qualche manifesto, qualche CD, qualche qualcosa, qualche libro, lo trovate nella sezione download, dove potete leggere ogni giorno quotidianamente la controinformazione aggiornata. Allora, appuntamento a lunedì ore 17. Vi lascio con un brano di chi? Dei Celab, Summer of It. E poi potete anche andare a fanculo tutti. Something better this way. informazione, letture, provocazioni, musica.